va in archivio con una perdita di 495 milioni il 2007 dell'Alitalia, secondo il bilancio approvato solo ieri sera dal Consiglio di amministrazione. Non sarà stato l'anno dei risultati peggiori, ma è stato l'anno della perdita della speranza del risanamento, con tre condottieri susseguitisi al timone, Cimoli, Libonati, infine Prato. Il pilota, che era arrivato a un passo dalla consegna della sofferente compagnia nelle mani sicure ma sgradite ai sindacati e a Berlusconi di Air France. I conti quest'anno sono peggiorati e lo Stato ha appena buttato altri 300 milioni di soldi pubblici nella voragine della compagnia di bandiera. Però non c'è nessuna offerta di acquisto dai privati e adesso c'è bisogno di una ricapitalizzazione in tempi strettissimi, ha detto il Consiglio di amministrazione lanciando di nuovo l'allarme. Al momento però l'unico candidato a mettere altri soldi in questo pozzo senza fondo è lo Stato. Gianni Dragoni, GR24, Il Sole 24 Ore.